Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Mai dire gatto finché non è nel sacco, dice il proverbio. Che tutti i terroristi fino adesso siano stati degli islamici che agiscono urlando Allah è grande, cose di questo tipo. Questo non significa che gli islamici siano tutti terroristi, per l'amor di Dio, però tutti i terroristi purtroppo sono islamici. Allora... E stiamo diventando sempre di più come Israele, ognuno di noi si sente sempre di più come un ebreo dello Stato di Israele che deve vivere nella continua situazione di pericolo. In Europa ci sono milioni e milioni di musulmani e nonostante tutta la propaganda dell'ISIS abbiamo avuto solo 8 attentati. Potrei dire, volendo, che si tratta di attentati un po' sfigati, diciamo così, attentati appunto improvvisati da non collegare a date, da non collegare a nessuna evenienza particolare. Signore, bisogna riempire i talk show e bisogna dire ognuno la sua, ed è giusto, per carità, ognuno ha la propria di idea. E Ale, signori, è venerdì, è nuvoloso e ci sono 8 gradi a San Pellegrino Terme, per esempio. Così come a Modena ci sono 11 gradi. Oh, avete la tastiera ferma sull'11. Tre giorni che sono 11 gradi ovunque. A Ferrara 9 gradi. Mentre a Orvinio, in provincia di Rieti, 5 gradi. Saluto Luigi. Un disastro a Dubai, da dove ci scrive Marco in questo momento. Piove! 21 gradi però. 9 a Pomezia. 8 gradi a Sorisole. Ringraziamo anche l'ascoltatore che ci ricorda che su Plutone ci sono 233 gradi. Sotto zero, non lo so, che cosa. 12 gradi a Verona. Buongiorno, buongiorno Verona. Mara ci dice che a Bologna ci sono 12 gradi, così 12 gradi a Ponte Cagnano. 8 gradi a Spinea e 15 a Stellenbosch, Sudafrica. Sono Luciano Ligabue e anch'io la mattina ascolto Alessandro Milan. Vacca boia. Ed è venerdì. Il grande Barti Colucci. È un grandissimo ragazzi Barti. Ma lo sentite quando imita Maurizio Costanzo? No, non potete ascoltarlo perché è su RDS, non cambiate canale. Quindi... ascoltatevi il podcast. 1, 2, 3, anche che le venerdì. E poi c'è questo grande messaggio su Ermonnezza, Thomas Milan. Ragazzi, che giornata, ieri è morto Thomas Milan. Che giornata, è morto il mago Zurlicino Tortorella. Mamma mia. Fuori fa le nuvole di E poi eccolo qua il messaggio: per favore oggi non chiamare Vincino, ti prego, non chiamate Vincino. Buongiorno Vincenzo, come stai? Buongiorno, bene. Ecco, la voce la recupereremo ogni tanto. Prima o poi speriamo. Come va allora? Dove sei? A Roma? A Mondello? Mondello. Sei scappato dai Black Bloc? Siamo da una settimana qua. Vabbè, insomma, che devi fare? Va bene, insieme a Vincino c'è Flavia Perina, che invece sta nel cuore di Roma. Buongiorno. Ma non proprio nel cuore, buongiorno, sopra lo stadio, quindi non so, sì, alla periferia del cuore. Lo stadio nuovo o lo stadio? Ah, lo stadio nuovo? No, lo stadio quello che c'è, insomma, non quello che forse l'unico, ci sarà. L'unico che vale per ora. L'unico che vale. L'unico che vale. Allora, siccome ognuno dice la sua, qui anche noi diciamo la nostra. D'altronde oggi ho letto addirittura questa pagina su Repubblica in cui si raccontava come dobbiamo difenderci adesso con fili spinati, checkpoint, muri, dissuasori, vietare subito. Io voglio una direttiva dell'Unione Europea per vietare l'utilizzo di tutti gli autobus e tutti i mezzi di locomozione che pesano più di, non so, 400 kg. E quindi subito, Perina, si potrebbe fare subito una direttiva. Solo in panda, circolazione in panda e bande chiodate. Le bande chiodate ci sono nella pagina di Repubblica? No, le bande chiodate no. Non ve le ricordate le bande chiodate? Vincino forse se le ricorda. Certo, le bande ricordo, assolutamente. Quante bande chiodate hai dovuto affrontare tu nei tuoi cortei violenti, diciamolo? No, le ho disegnate. Ah, le hai disegnate? Le ho disegnate. Ah, fantastico. Era proprio il rimedio numero uno contro le brigate rosse, le bande chiodate. Sì. Le bande chiodate. Che poi nessuno si è mai bucato una gomma su queste bande chiodate, che però fecero una grande impressione sull'opinione pubblica. Quindi possiamo tornare lì e magari se le ricordano, diranno. Fantastico. No, in realtà quello che domani si prevede a Roma, quanti ci sono? 5, 6 cortei, 7 cortei, 12 cortei, non lo so. Insomma, un mezzo disastro. Attenzione, tra l'altro, perché apriamo il Parlamento, perché il ministro dell'Interno Minniti. No, ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io ieri l'avevo commentato in rassegna stampa e ho detto: beh, bella furbata a far uscire sui giornali la polizia non userà la violenza, ha avuto l'ordine di non usare la violenza, insomma prendetele. E infatti oggi Minniti su tutti i giornali fa sapere che invece verrà utilizzata, sai Vincino, questa è l'espressione utilizzata, una tranquilla fermezza da parte della polizia. Tranquilla fermezza. Va bene. Cioè se uno cosa vuol dire una tranquilla fermezza? Tu come la traduci? Tu come la traduci se fossi in corteo? Cioè tu fai qualcosa nulla. Che non va? Ma com'è nulla? Tranquilla fermezza. La tranquilla fermezza è nulla praticamente. Ho capito, ma il ministro dell'Interno mica può dire sprangheremo le teste dei Black Bloc, no? Tranquilla fermezza, non lo so. Flavia, che vuol dire una tranquilla? Non lo so, scioglietevi e vi carichiamo e poi tutti si fermano, oppure forse del come si chiama, del Valium vaporizzato sulle manifestazioni anche potrebbe essere. La tranquillità mi fa pensare a qualche soluzione creativa di questo tipo, ma a Roma io non credo che succederà niente, perché di questi 7 cortei 3 sono in favore dell'Europa, se ho capito bene, quindi non dovrebbero assaltare niente, altri 4 ma sono 3, 2 sono un po', poi c'è uno un po' più agitato che però insomma bello, hanno mobilitato 7.000 poliziotti. Credo che con la tranquilla permessa oppure senza, in qualche modo ne avranno ragione. Il corteo un po' più agitato, come lo si riconosce? È bello, cioè si presentano già tutti un po' digrignando, un po' più agitati, sì, no? Digrignando i denti. Cos'è? Non si portano forse in pasta montagna, ma non credo, qua a Roma ci sono 12 gradi, forse neanche i caschi. Siamo nella lotta normale senza farsi male, secondo me, oggi. Sì. Non lo so, noi ironizziamo anche un po', ma davvero speriamo che in qualche modo domani vada tutto bene a Roma, così come... Ecco, una cosa però che sulla quale dobbiamo forse renderci conto, forse quando Peter Gomez dice effettivamente 8 attentati e ci sono milioni di musulmani in Europa, lo so che fa specie, cioè perché lo ridurremo poi a un evento che può capitare tra qualche tempo, lo ridurremo a una delle evenienze che possono capitare durante la giornata, andando avanti così. Ma caro Vincino, dobbiamo abituarci al fatto che dobbiamo mettere in conto anche questo, che dobbiamo far fronte a questo tipo di minacce nuove, al rischio di un attentato con uno che ci tira giù con la macchina. Penso di no, secondo me, è un errore questo discorso di Gomez, non mi convince assolutamente. No, soprattutto per chi gli capita, non è che... Ma questo è chiaro. Questo... Cioè, ogni cosa è terribile, drammatica, assolutamente. Peraltro però non possiamo pensare che Mosul sta là lontana e noi qua tranquilli, ecco. Un po' di Mosul viene qua anche. Sì. Ma no, io non concordo però su questo. Io penso che bisogna guardare i fatti. Il progetto importante dello Stato Islamico, del Califfato, era sollevare i musulmani di Occidente e trasformare le città europee in qualcosa di simile a Mosul. Questo progetto è evidentemente fallito. Loro sono riusciti ad arruolare così dei personaggi marginali che fanno anche un tipo di attentati che non hanno nessuna forma organizzativa, che sono attentati da disperati. E che la sfigate, ha detto Filippo Faccera. Sì, forse l'espressione più che da sfigati, da cani sciolti, da persone senza alcuna organizzazione alle spalle, senza armi, usando le auto, i coltelli. Quindi è evidente che il progetto del califfato è fallito. I musulmani d'Europa se ne sono stati a casa, non hanno fatto la rivoluzione, non danno probabilmente coperture a questi esaltati, e che tra l'altro poi non sono neanche foreign fighters, non sono terroristi di importazione. Mm-hmm. È gente che viveva nelle città, anche questo ultimo inglese era un inglese nato in Inghilterra, che aderisce in modo folle a questa causa, ma sono quasi tutti soggetti isolati, non c'è più quella potenza di 3 anni fa. Beh, ho capito, non quindi... sono d'accordo, aspetta, scusa, sì, Parigi e Bruxelles non sono cani sciolti così. No, quelle sono state organizzate. Sono bande marginali di una grande organizzazione che ne può buttare di questi qua a centinaia. Questo è il punto. Però non lo sta facendo. Come non lo sta facendo? Forse non ce la fanno. Forse. Parigi e Bruxelles ogni giorno. Ne fa uno ogni anno. Però questi qua, nei loro quartieri, sono stati coperti. Assolutamente, per mesi. Questo è vero, a Molenbeek non è che anche la mafia non è che faceva un attentato ogni giorno, però quando lo faceva era terribile ed erano coperti nei loro ambienti, nelle loro cose. Non abbiamo affatto vinto, la situazione non è così, assolutamente. E non era quello il piano del califfato, secondo me. Però il califfato è vincere da loro ed essere forse egemoni da loro. Sì. Poi naturalmente non ce l'hanno fatta, da loro stanno perdendo terreno, adesso prima o poi verranno sconfitti. Era un califfo più forte e più credibile che forse sarà Erdogan. No, ma ci sarà, non è affatto, siamo per la strada. Cioè Erdogan, la pensi come Oscar Giannini? Il califfato secondo me è una proiezione storica loro, che non è affatto sconfitta. No, è sconfitto affatto... quello là, quello scemo della moschea là. Sì. Chi è? No. Chi è? Non è quello come si chiama? Sì, là. Al-Baghdadi. No, Al-Baghdadi. Questo l'ho detto tu, non io. Come? Vabbè. Eccolo lì subito Vincino che fa satira col beep degli altri, certo, ovvio, fa satira col beep degli altri. Come fa il sindaco di Napoli, no? Nascondere la mano dopo tirato il sasso. De Magistris. Vabbè signori, comunque qui abbiamo, dai, parliamo un po' anche di politica italiana, perché in tutto questo dobbiamo, io veramente da giorni dobbiamo iniziare una nuova rubrica dopo lo psicologo di D'Alema, dopo il premio Giachetti, dobbiamo iniziare la rubrica che non abbiamo per oggi, ma la stiamo approntando, le metafore di Bersani, dobbiamo assolutamente, Flavia Perina, tu sei ferrata, le capisci, le traduci? No, perché è bolognese, quindi ho delle difficoltà, metafore sulla base delle mucche, eccetera, io sono un po' più metropolitana, però diciamo che ci la mucca in corridoio, capisci cosa vuol dire? Sì. Sono uno di uova e latte, capisci? Riflettendoci, sì, un pochino. Riflettendoci. Il tacchino sul tè, detto, se senti, senti questa, per esempio. Sempre cose un po' aggressive, sempre un po' cose sì, di campagna. Sì, un po' di campagna. Sì, questo... Io sono nata in città, quindi ho un po' di difficoltà. Questo l'ho capito anch'io, che ha riferimenti campagnoli. Senti questa, per esempio. Allora, il primo impegno che ci prendiamo assieme è che smacchieremo il giaguaro. Vabbè, la famosa, smacchieremo il giaguaro. Il giaguaro esotico, però. Sì, sì, sì. Che però che cosa vuol dire esattamente smacchiare il giaguaro? Un giaguaro non si spazzola, non si smacchia, no? Quindi... Sì, infatti, insomma, faremo una cosa che sembra impossibile, riusciremo a fare una cosa che sembra impossibile, come appunto smacchiare un giaguaro. Che era Berlusconi in quel caso. Che all'epoca, sì, all'epoca mi sembra che, quindi, fosse Berlusconi, quindi, poi non è che l'hanno smacchiato tantissimo. Quindi smacchiare il giaguaro vuol dire battere Berlusconi. No, perché dobbiamo fare il dizionario, il metaforese, lo chiameremo il metaforese di Bersani. No? Tu, Vincino, concordi? Smacchiare il giaguaro è questo. Metaforese no, però mi piace. Come metaforese, no. Metaforese. Il metaforaio... No. Studiamo ancora. Vabbè, studiamo un altro titolo. Studiamo, va bene, studiamo un altro titolo. Ma ti piace l'idea? Sì, la rubrica? Pensare, sì. Va bene, va bene. Allora... E poi non ci ha azzeccato mai proprio la sgarrata. Ma lascia perdere, tu vai oltre, all'analisi politica. Vabbè, andiamo al traffico, poi parliamo un po' di Bersani che si avvicina al 5 Stelle e piglia un pugno nei denti, metaforicamente parlando, si intende sempre, e politicamente parlando, e poi parliamo di Renzi, quello che volete. Berlusconi rimane il giaguaro da smacchiare. È una smacchiatina alla fine, adesso non gliel'abbiamo anche data. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Alessandro, ma quante palle con sti cazzi di gradi. Sono un agente di commercio, ma ci avete rotto i coglioni! Ci resta il 30% di quello che fatturiamo! Maledetti! Ma sto Vincino, chi è? Cosa fa? Cosa ha fatto nella sua vita? Lo sa che siamo nel 2017 e le carrozze non girano più? C'è internet? Ciao Antonio Milano! Ma io dico, con tutte le belle donne dell'est che ci sono, che tornano in forma subito dopo il parto, che sono sexy, non usano il pigiamone, ma perché ci è capitato a noi Alessandro Milan? Venuto qui a dirvi che dopo questo gesto disperato di oggi so che andremo al governo di questo paese, perché sono finiti. Se doveste mandarci al governo, tra i nostri primi atti sarà tagliargli tutto lo schifo di privilegi che ci sono presi in questi anni. Allora, devo informare, se Flavia Perina mi assiste, l'ascoltatore, che la radio non si vede comunque, al momento nel 2017, quindi anche se io fossi, posso, magari sono in minigonna peraltro, caro ascoltatore, e tu non lo sai. Lascialo immaginare. Il bello della radio è l'immaginazione, è la poesia. Che ne sai tu che io non sfoggi una bella quarta? Caro ascoltatore, già ho il cognome Milan che arriva proprio da dall'est, no? Ricordare, lì è un nome di battesimo, Milan Kundera, no? E che magari ho la minigonna. Tu potresti essere una ragazza dell'est, stai sostenendo questo? Sto sostenendo esattamente questo. O potrei essere agghindato come una ragazza dell'est, chi lo sa? Poi vabbè, ho messo Di Maio, ma l'ho fatto solo per fare un piacere a Vincino. No? Esatto. Grazie. Vuoi... No, ma concordo assolutamente. Che andranno al governo. Andranno al governo con l'appoggio di Bersani, Salvini, con Gianno, con un'ampia scelta, sì, con cui loro saranno, tutti soffriranno a dare quello che manca a loro, quel poco che manca a loro, assolutamente. Stupendo, guarda, meraviglioso, guarda. Sarà il momento di rifare un grande giornale di satira proprio. Cioè, lui lo aspetta, capito Flavia? Aspetta questo momento perché ha questo giornale di satira in mente. Rinascerà la satira. Concordo totalmente. Cioè, sarà un grande momento per l'intero giornalismo. Così come in America con l'elezione di Trump è un grande momento per il giornalismo. Finalmente ci sarà da raccontare, da divertirsi. Però qua credo che l'intero giornalismo sarà prono, secondo me. Canteranno tutte le lodi di questi ragazzini. Tranne un giornale. Tranne un giornale di satira. Un giornale di satira ci sarà. Che verrà chiuso. Se lo fai mi arruolo immediatamente. Ecco, dai, abbiamo già una editorialista. Due ne abbiamo, no, scusami. Abbiamo già, chi, due. Cioè io? Certamente, tu sei un grande intervistatore, come dire, la peggio intervista del mondo me l'hai fatta tu, no? Posso perdere. Sì, è vero, ho fatto un'intervista a volte a Vincino, la peggiore intervista della mia storia, effettivamente, questa su Libero. Allora, che dire... Renzi invece, Flavia Perina, hai capito? Renzi pare che sia, gli hanno fatto questa domanda, ma le manca Palazzo Chigi? No, non mi manca per nulla, no, ma assolutamente per nulla. Ah, si capiva che era una bugia. Lo vedo un po' in difficoltà, lo vedo un po', diciamo, anche mediaticamente. Lui è abituato a stare sempre dappertutto, a farsi vedere dappertutto, invece ora gli hanno detto devi stare calmo, devi comparire da tutte le parti, quindi io immagino è un momento di grande sofferenza, secondo me, anche personale per lui. Sì. Però pare che brighi alle spalle, anche se lui dice non sono il burattinaio, non conto più nulla, ci sono questi retroscena, ora il governo cambi marcia, ora cambi musica, Padoan, questo avrebbe detto, caro Vincino, capito? Cambi musica sulle tasse, su... cosa teme Renzi di finire nell'oblio se non si va a votare in fretta? Cioè, di cosa ha paura? Secondo te? Come dire, disastro prossimo futuro. Poi ci sono i suoi che... Allora, questa storia della RAI, i suoi sono lui e Bacchettone, no? I suoi sono ultra Bacchettoni, no? Sì. Per cui questa cosa della RAI della povera Perego, no? Per una trasmissione infelice, ma niente di che, no? Sì, sì. Non, ecco qua, i suoi senza lui sono ancora peggio. Sono peggio. Come? No, sei saltata sulla Perego, non lo so perché. Flavia Perina, adesso mi devi dire qualcosa sulle ragazze dell'est. Io pensavo di averla derubricata questa cosa, invece. Invece no, Vincino, questa cosa che è piaciuta. Hanno chiuso un programma brutto che ha fatto. Vabbè, dai, però il motivo è stata una grossa scivolata, ma giustamente guarda che Paola Perego che dice hanno intervistato il figlio di Rina, ci sono state bestemmie, no? Sfuggite ovviamente. Vabbè, per carità, poi in Italia c'è sempre qualcosa di peggio a cui appellarsi, allora anche il chirurgo che piantava protesi spezzando le femore alle piedi dirà ma come, cioè, abbiamo avuto poltronini che rubava i milioni della sanità e adesso venite a scocciarmi a me perché ho rotto la protesi a una novantenne, insomma. Invece tu dici appellarsi al peggio, insomma, non mi sembra una buona strategia. Sì. Hanno fatto un colossale errore, l'intera trasmissione era palese che quella roba lì era fatta in una maniera irritante per moltissimi spettatori della RAI. La RAI obbliga tutti da quest'anno a pagare un canone, forse prima quando il canone non era una tassa, adesso sostanzialmente è una tassa, sarebbe passata di più e adesso non è che passata. Che c'hai, Vincino? Ha ragione. Doveva saltare il direttore di RAI 1, di dov'è? Beh, adesso il direttore controlla tutto quello che va in onda. L'argomento l'avevamo denunciato prima. Lei dice che l'argomento l'avevano dato e lo sapevano, no? Per cui, come dire, non è che... deve saltare qui, vabbè, insomma, comunque, dai, prendere responsabilità. Vabbè, dai, fermati qui perché adesso c'è Paola. Siamo tornati a Paola Perego, che dobbiamo fare? Dai, che è venerdì, guardiamo avanti, guardiamo il weekend. Vi devo ringraziare Vincino da Mondello e Flavia Perina. Speriamo davvero che a Roma non succeda niente. E tu comunque stai chiusa in casa, Flavia, non si sa mai. Ma per carità, ma ci manca solo, vado dove mi dare, vabbè. Grazie, alla prossima. Dai, Milan, che è quasi finita! Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. È arrivato Milana Lino. Legge, commenta, spoglia, combattute piccanti. È arrivato Alino Milan, l'arrotino della comunicazione. 24 mattino. Signori, eccoci qui in questo venerdì 24 marzo, giorno in cui si conclude la 203esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. 203, ragazzi, di questa legislatura solo, Sono le 7:21 minuti, è il momento della rassegna stampa di 24 mattino. Caro Peter Bescapè, vogliamo procedere? Procediamo. Mai dire gatto finché non è nel sacco, dice il proverbio. È vero, caro padre Livio Fanzaga, il proverbio dice così. Venerdì 24 marzo, intanto i titoli, l'apertura del Sole 24 ore, pensioni per l'uscita con l'APE volontaria, tasso annuo al 2,75%, questo è il titolo di prima pagina. Ma poi il dopo Londra, il Corriere della Sera, il killer di Londra, un papà di 52 anni nato in Inghilterra. Repubblica, killer di 52 anni, pronti altri attacchi. Per la stampa, la cellula di Birmingham, questo è il titolo di prima pagina. Il Fatto Quotidiano, Londra, il killer è un altro jihadista noto ai servizi. Anche il Giorno punta su questa defiance, non si sa, insomma, comunque, killer ISIS, gli 007 sapevano. Un terrorista tira l'altro, è invece il titolo del giornale. Per muoversi a Roma, invece, domani saranno problemi. Il Messaggero, cortei di Roma, sfida di Minniti, linea dura con i violenti. Questo è il colloquio col ministro dell'Interno. L'allarme per fondamentalisti e Black Bloc, tra l'altro vietati camion e furgoni in centro. Vedremo altri titoli, ma voglio partire da alcune notizie, beh, non proprio queste così drammatiche di Londra, ma vediamo altre cose di cronaca che mi hanno colpito, a cominciare dalla questione vitalizi che ritorna in auge, perché lo sapete, c'è stato la sforbiciata con la tassa di solidarietà ai vitalizi più alti, non era quello che voleva il 5 Stelle, c'è stata la bagarre politica, comunque i giornali tornano, come fanno periodicamente, a concentrarsi su questo tema. Dino Martirano racconta, per esempio, chi sono i paperoni del vitalizio e che dicono però ce lo siamo guadagnato. Publio Fiori è uno di quelli che guadagna di più, 79 anni, domani tra l'altro. Democrazia Cristiana, è stato vicepresidente della Camera, prende 10.131 euro al mese. Clemente Mastella, di cui ho letto ieri un'intervista, 70 anni, riceve un assegno da 6.939 euro al mese. Ciriaco De Mita, ex presidente del Consiglio, 89 anni, vitalizio da 5.862 euro. Paolo Cirino Pomicino, Democrazia Cristiana, molti di loro sono ex DC ovviamente, avendo governato a lungo, percepisce 5.411 vitalizi. Insomma, i classici elenchi che ogni tanto vengono fuori in questo momento, mentre Repubblica intervista Francesco Speroni, cioè, si vede quasi, sembra di entrare nelle redazioni dei giornali quando dicono, beh, cerca un vitaliziato, dai, qualcuno che ci dica qualcosa domani. Ecco, Repubblica ha trovato Francesco Speroni della Lega, noi privilegiati, voi invidiosi dei vitalizi. In questo paese chi ha pensioni sopra la media viene penalizzato, una questione di demagogia pura e invidia sociale. Così Francesco Speroni commenta Italia e vitalizi approvati dall'ufficio di presidenza della Camera su proposta del Partito Democratico. Poi dice, sono un privilegiato, sì, e non me ne vergogno, non mi sento un profittatore. Tra lavoro precedente e impegno in politica ho versato 35 anni di contributi. Prendo 79.000 euro lordi l'anno, escluso l'INPS, quindi rientrerei nella prima fascia. Dovrebbero sottrarmi il 10%, non è un gran danno, ma mi sembra comunque un'ingiustizia. E a lei, insomma, la questione dei vitalizi, che torna. Come torna, ne parleremo anche oggi con Donatella Ferranti, presidente della Commissione Giustizia alla Camera, la vicenda dei giudici, le carriere dei giudici, le carriere separate. Oggi c'è però anche quest'altro spunto dal giornale, pagina 15. l'autogiustizia dei giudici. Chi sbaglia non paga mai. Nei procedimenti disciplinari al CSM analizzati da Lodovica Bolian sul Giornale, le condanne sono irrilevanti. Sono circa 190 i procedimenti all'esame ogni anno nella sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, dove giudici giudicano altri giudici. È il principio dell'autodeterminazione della magistratura, dell'autogoverno. C'è chi si dimentica di liberare un imputato entro i termini previsti, come quel poveretto che è rimasto 37 giorni in più dietro le sbarre perché il GIP non ha ordinato la scarcerazione. C'è chi si è letteralmente inventato un provvedimento non previsto dalle norme vigenti, con cui, anziché sottoporre a interrogatorio una nigeriana accusata di riduzione in schiavitù e sfruttamento, l'ha liberata perché l'ordine d'arresto era in una lingua a lei non conosciuta. Un errore definito macroscopico dai giudici disciplinari. Ma andando a vedere tutte queste decisioni, dice il Giornale, sì, c'è qualche... soprattutto non luogo a procedere, insussistenza, irrilevanza del fatto, qualche biasimo, ma non si arriva assolutamente mai alla rimozione, la sanzione più pesante prevista dall'ordinamento. Per esempio, dice Pierantonio Zanettin, membro laico del CSM, io in questi anni non ne ho mai viste. Allora l'idea è, non sbagliano mai? Sì, magari l'ammonimento, la perdita dell'anzianità, ma anche qui in genere il posto e lo stipendio non viene mai toccato a fronte di qualsiasi errore. Oh, a proposito di stipendio, sapete che l'Italia, quante volte ve lo dico, è il paese delle deroghe, delle deroghette, delle leggi che possono permettere di aggirare delle norme. Lo sapete, no? Ecco allora che Aldo Fontanarosa racconta su Repubblica, pagina 19, ciò che in realtà era già emerso anche sul Messaggero da qualche giorno. C'è una legge che salva le star della RAI. Sapete che ci sono questi tetti da 240.000 euro? Il governo apre alla RAI con una legge che permetterà di aggirare il tetto da 240.000 euro. È una norma del 2008 scovata dagli avvocati di Bruno Vespa, scrive Repubblica. E da questi avvocati, finanziaria 2008, legge 244, articolo 3, comma 44, questa norma interviene sul trattamento economico delle persone che lavorano per lo Stato, in particolare per società totale o prevalente partecipazione pubblica, parliamo di società non quotata, di rapporti di lavoro dipendenti autonomo, e questa legge, che non sto a spiegare nei dettagli, insomma, lo faranno gli avvocati di Bruno Vespa, permetterebbe di aggirare il tetto da 240.000 euro l'anno. Allè. Signori, qui più che da mettere le mani sul volante c'è da mettere le mani nei capelli chi li ha, però certo è la notizia che mi fa pensare della giornata. È la vicenda di cronaca, per carità, tutti i garantisti, ma insomma, leggere sui titoli il primario che metteva protesi inutili o che addirittura dice in un'intercettazione ho rotto un femore per poi allenarmi in sala operatoria a mettere la protesi. Primario che andava spesso in TV, Norberto Confalonieri, 65 anni, responsabile di ortopedia e traumatologia al CTO di Milano. Secondo il giudice ha spudoratamente privilegiato gli affari delle società e leso l'interesse alla salute. È accusato di avere impiantato protesi solo di alcune aziende che, guarda caso, poi lo avrebbero ricompensato con 16.000 euro per sé, 2.660 euro per il figlio, l'uso gratuito di un software da 24.000 euro. Considerato un luminare della chirurgia ortopedica, tra l'altro, responsabile della sezione Lombardia dell'Associazione dei Medici accusati ingiustamente di malpractice. Beh, non è straordinario, insomma, questo paradosso, se fosse vero tutto quello che gli imputano, considerato di essere un interventista. E poi questa intercettazione, appunto, sul femore rotto a una settantenne per poi sperimentare tecniche da applicare in sala operatoria. Le ho rotto il femore per allenarmi, è il titolo più gettonato. Tra l'altro parla l'imprenditore che lo accusa, si tratta di Mauro De Monti, valtellinese, che dice mi ha rovinato con una serie di operazioni che ha portato all'immobilizzazione della mia gamba. questo poi si vedrà, insomma, è la versione di questa persona che dice: ho pensato addirittura al suicidio. A tutto ciò è dedicato il caffè di Massimo Gramellini in prima pagina del Corriere della Sera. A momenti abbatto un microfono, tra l'altro, poi ci vuole la protesi per il microfono. Il dottor Spezzafemori. Norberto Confalonieri era il medico di cui ti fidavi, il primario davanti al quale ti sentivi in soggezione, il luminare di ortopedia che vedevi in TV col foulard al collo, come per un party in Costa Azzurra, mentre discettava di operazioni all'anca sfoderando sorrisoni all'intervistatore di Camici Luciano Onder. Ora è agli arresti domiciliari. Pare che dietro la sua attività di montatore di protesi a ciclo continuo ci fosse il sostegno affettuoso e non del tutto disinteressato di un paio di multinazionali. Ma a consegnarlo agli annali della malasanità sarà l'intercettazione in cui si vanta di essermi fatto una vecchia per allenarmi, cioè di avere spezzato apposta il femore a una signora di 78 anni per sperimentare una tecnica che avrebbe poi utilizzato su un altro paziente nella clinica privata in cui andava a arrotondare lo stipendio pubblico. Per non far mancare nulla al suo autoritratto esistenziale, il dottor Spezzafemori è anche il presidente della sezione lombarda di AMAMI, acronimo di Associazione Medici Accusati di Malpractice Ingiustamente. Un profeta, insomma, o un paraculo. Due caratteristiche che in Italia procedono sovente di pari passo. Perfino in quest'epoca di ospedali trasformati in aziende, il singolo medico gode ancora di un immenso prestigio sociale. L'opinione comune si ostina a vedere in lui un sacerdote dei corpi, che ha scelto quel mestiere per vocazione. Perciò, per un primario che si vende l'anima, non esistono attenuanti e nemmeno protesi in grado di rimpiazzargliela. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia! State ascoltando un programma offerto da... Office 365, il tuo ufficio sempre con te. Provalo a un euro, vai su aruba.it. Alessandro Milan, il confetto fai qui dell'informazione. Oh, non è che posso prenderla come un grande complimento, ma invece sì, caro ascoltatore, è un segno di vicinanza comunque il tuo. E ti ringrazio per questo, hai pensato a me. E di questo io ti ringrazio. Al 349-238-6666 hai mandato la tua sigla. Potevi fare di meglio, forse, ma va bene così, va bene così. Allora, si chiama Khalid Massoud, aveva 52 anni, era un cittadino britannico di Birmingham, anche se aveva altri alias e per questo era un po' un problema. Direi che si è saputo almeno l'identità e oggi c'è questo ritratto dell'attentatore su tutti i giornali. È ovviamente l'attentatore di Londra, di questo sto parlando. Marco Imarisio racconta a pagina 3 del Corriere della Sera, da inviato a Birmingham: ora tocca a loro. Così, con la faccia segnata da tanti anni di box, il pitbull al guinzaglio, Chris Boyce non si dispiace. È un ex pugile irlandese, ormai cinquantenne, ciabatte lattina di birra in mano e assiste allo spettacolo di un ometto grande la metà di lui, che spiega, arranca, gesticola. Questo signore che gesticola si chiama Farhad Makhanvad. Fuggito dal suo paese nel 79, è l'ultimo coinquilino del killer Khalid Massoud. Non lo conosco, dice, non sapevo neppure chi fosse. Ecco, questa frase di questo, colta da Marco Imarisio, di questo irlandese, ora tocca a loro. Prelude anche, insomma, un clima non certo disteso tra comunità diverse. L'ultimo inquilino del signor Farhad si chiamava Khalid Massoud. Aveva almeno un'altra decina di nomi in realtà a disposizione, con i quali negli anni ha mascherato se stesso e la sua famiglia. Ai vicini della villetta in mattoni rossi di Quayside 4, dove è abitato fino a dicembre, aveva raccontato di avere origini giamaicane, ma il presunto Massoud non era certo un modello di virtù, dicono che abbia insegnato inglese. Lui stesso si è definito insegnante, con l'addetto che gli ha noleggiato la Hyundai 4x4 con cui poi ha colpito. Non ha mai esercitato in scuole pubbliche, viveva in realtà di espedienti, piccoli crimini. I suoi numerosi alias stanno rendendo complicato a Scotland Yard il compito di quantificare i suoi reati. sicuramente a 19 anni una rapina a mano armata, l'ultima rapina nel 2003 è una denuncia per detenzione di un coltello da guerra, ma non è neppure sicuro che l'anno e il giorno di nascita sia quello. Ma questo è il ritratto. Comunque, inglese, padre, andava in moschea. Insomma, il ritratto è un po' quello solito del cosiddetto cane sciolto. Tra l'altro, a Londra c'è un sindaco musulmano, Sadiq Khan, di origine pakistana, come di origine pakistana il killer. E giustamente allora, a pagina 6 del Corriere della Sera, la sfida ai terroristi del musulmano Khan, che vuole abbracciare tutte le diversità. Ma ammette il sindaco, anche qui ci sono i radicalizzati. Tra l'altro su di lui c'è una polemica di Trump Junior, Donald Trump Junior, che su Twitter ha detto: ma state scherzando? Gli attentati sono parte integrante della vita in una metropoli, ha detto il sindaco Sadiq Khan. Certo, Sadiq Khan ha aggiunto nella complessità del suo discorso: per questo dovremmo essere vigili. Però da un Trump, da un familiare del presidente americano, è arrivata una dura critica al sindaco di Londra. Londra si prepara a forse altri attacchi, almeno questo alcuni dicono. Sono stati fatti degli arresti ieri e hanno sventato nuovi possibili attentati. C'è il giallo su quello che è successo ad Anversa, dove un tunisino che però trasportava droga ed era ubriaco sarebbe stato fermato e voleva scagliarsi sulla folla. Ora, era un attentato o era veramente un ubriaco e, come dice la Francia, un corriere della droga che voleva scappare? Qua non si sa. Viene definita su Repubblica la strana replica in Belgio. Certo che l'allerta è massimo. Federica Mogherini, l'alto rappresentante della Commissione Europea per la politica estera, dice che vinceremo la battaglia solo se coordiniamo le singole intelligence. Questo lo fa in una intervista alla Stampa, intervistata da Marco Zatterin a pagina 5. E Minniti, invece, ministro dell'Interno, si prepara alla giornata di domani. Ieri dicevamo, sul giornale era uscita questa notizia che la polizia avrebbe usato la mano morbida. E ieri infatti commentavo, insomma, fare uscire questa notizia non è proprio... è un po' un assist per i violenti, qualora ve ne fossero, che domani si infiltreranno nei cortei per cercare di fare qualcosa a Roma. E infatti ecco che il messaggio che viene subito oggi riportato da tutti i giornali è totalmente diverso. Secondo il ministro dell'Interno Minniti, domani nei confronti di eventuali violenti la polizia utilizzerà una tranquilla fermezza. Questo è il messaggio che viene fatto passare dal Corriere della Sera. Il Messaggero va oltre, fa di più. C'è un colloquio con Marco Minniti, Cristiana Mangani, a pagina 7. Marco Minniti che sa bene che in democrazia il principio è la libertà di manifestare le proprie opinioni, ma con un limite: la violenza. La parola d'ordine dunque sarà controllo del territorio, una risposta antica che è il sistema ancora più efficace di fronte all'imprevedibilità dell'atto. Ecco perché il Comitato di Analisi Strategica è in riunione permanente e ieri mattina all'incontro convocato d'urgenza dopo i fatti di Londra era presente con i nostri 007 anche l'ufficiale di collegamento in Italia di Scotland Yard. Anche a Roma non si può sottovalutare nulla. Questa è la frase anche sempre del colloquio con Minniti. Titolo: libertà di manifestare, ma linea dura con i violenti. A ogni corteo sarà lasciata la facoltà di scegliere il percorso, ma essenziale sarà il controllo del territorio, una risposta antica davanti all'imprevedibile. Questo trovate sul Messaggero. Si parla anche di stop ai camion. Si parla di dissuasori, di muri, di blindare le città. Insomma, diciamo, non credo che questa possa essere la risposta giusta di fronte appunto all'attentato imprevedibile al cinquantenne che a un certo punto della vita decide di prendere una macchina e uccidere le persone a caso. Tutto ciò non si può assolutamente, si può prevenire al massimo, ma non si può escludere purtroppo al 100%. In ogni caso c'è il nostro Mauro Meazza. Buongiorno caro Mauro, come va? Buongiorno, buongiorno, bene caro Alessandro, questo venerdì particolarmente generoso, perché non dobbiamo neanche scambiarci i tradizionali auguri per il fine settimana calcistico. Allora avrai tempo e modo di meditare sull'ape. So che a te servirebbero forse un po' di più dei 43 mesi che possono essere concessi per l'anticipo, però vediamo, insomma, se ne può parlare. Allora legge a pagina 2 e 3 del Sole 24 Ore, cominciano a delinearsi i primi dettagli, tra cui il tasso con cui dovrai restituire, caro Alessandro, quanto ti viene anticipato per la tua ape volontaria, ad esempio un tasso annuo del 2,75%. Ci sono anche degli esempi elaborati da Matteo Prioschi, ad esempio, ti fanno capire quanto poi ti graverà sulla pensione. Ma poi, con il Sole 24 Ore di oggi, i 60 anni del Trattato di Roma, l'atto costitutivo, l'atto di nascita dell'Unione Europea. E come sta l'Unione Europea? Ma insomma, non è un momento dei più felici, ma noi lo riepiloghiamo in numerose pagine proprio nella prima parte del giornale, con anche i problemi in sospeso, tipo quelli delle banche, che sappiamo non sono di poco momento. Oh, sappi che oggi è una giornata, dillo tu, perché decisiva, sicuro, mi piaceva dirlo così, perché? bravo, con questa enfasi, per la rottamazione delle cartelle, perché oggi si attende il decreto legge che dovrebbe fissare il termine per le richieste non più al 31 marzo, hai l'agenda? No, eccolo qua, certo. Prendi l'agenda, cancello. Non più al 31 marzo, ma al 21 di aprile. Oh, il Natale di Roma, evviva dai. Vabbè, Natale di Roma, sì, è vero, vero. Confermo. Comunque, al 21 di aprile... È Natale, pagate le tasse. Romani. No, sì, presentate le istanze per rottamare le cartelle ricevute. È Natale, presentate le istanze. È Natale, presentate le istanze, tutti i particolari naturalmente su norme e tributi. Ricordati che domani con il Sole 24 Ore troverai plus per i tuoi 2 eurini da investire, per i tuoi risparmi. E sappi che oggi, però in norme e tributi, non nelle pagine di finanza e mercati che comunque leggerai avidamente, In norme e tributi troverai anche un utile riepilogo dei PIR. Sai cosa sono i PIR? Sì, no. Firmati a PIR. Vabbè, sono i piani individuali di risparmio, sono una modalità di investimento che è stata introdotta con l'ultima legge di bilancio. Allora puoi andare a vedere qual è il vantaggio, specialmente dal punto di vista fiscale, quindi per questo motivo devi andare in norme e tributi, che leggerai come sempre religiosamente. Bravissimo. Un'ultimissima cosa, anche se molto altro ti vorrei dire, è che hai presente il bonus per le babysitter che bisognava erogare? Si poteva dare 600 euro o per l'asilo nido o per pagare la babysitter. Mm-hmm. Ecco, c'è un problemino, che con l'abolizione dei voucher, sto pagamento della babysitter, non si sa più come farlo. Vabbè, leggi su norme e tributi, altro non ti vo' dir. Buona domenica a te e a tutti gli ascoltatori, anche a Peter Bescapè e soprattutto, come sempre, traffico! Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Alessandro Milan, la chitarra elettrica dell'informazione. Signori, spettacolo, mani sul volante, signori, perché vi vedo schitarrare lì, Allora, dobbiamo continuare pur sempre una rassegna stampa, no? Siamo pagati lautamente, soprattutto Lorenzo Nespoli e Peter Bescapè, per questo, no? Sono Luciano Ligabue e anch'io la mattina ascolto Alessandro Milan. Vacca boia. Grande Peter, il nostro grande, no, non il nostro, ma il grande Barti Colucci. Allora, sfumami, perché dobbiamo parlare di politica, che stride un po' con queste note dolci. No, sfuma Peter. Allora, Renzi parla, e parla di politica. Ieri era il Corriere della Sera. Cosa dice su Minzolini? Ero per la decadenza e comunque non c'è un burattinaio di governo. Interessante questo articolo, perché dice nell'intervista Renzi, rispondendo alla domanda di essere in qualche modo, l'accusa di essere il burattinaio di governo, io... c'è un racconto su Renzi che non esiste. Mi sono dimesso da tutto, da premier, da segretario, e in questo momento non ho né nostalgia di Palazzo Chigi né del Nazareno, cioè del Partito Democratico. In realtà in retroscena di altri giornali, come quello di Tommaso Ciriaco su Repubblica, racconta ben altro. Pagina 14 di Repubblica: Renzi e la tensione con Padoan, il governo cambi musica. Questa è, insomma, più che il consiglio, in qualche modo l'arrabbiata considerazione di Renzi secondo Repubblica, e cioè ce l'ha su con alcune prudenze di Piercarlo Padoan, che lo hanno innervosito parecchio, scrive Ciriaco su Repubblica, ma ce l'ha soprattutto con ministri un po' troppo attivi come Carlo Calenda, che provano a incidere sulla politica economica di Palazzo Chigi scavalcando il partito di maggioranza, cioè il PD. Ed è un Renzi che dice: ora basta, dal 1 maggio il PD tornerà a fare il PD e chiederemo di mettere la fiducia ogni volta che sarà necessario. E dunque, questo dice Renzi, che insiste: l'IVA non si deve aumentare nonostante la manovra correttiva da fare. Va bene, queste sono alcune delle notizie di politica. Devo correre, alcune notizie di cronaca che mi hanno colpito. Una soprattutto: La Stampa, l'ospedale di Iseo dove da 15 anni non si può abortire. Voi vi rendete conto? Ieri ho parlato della legge del Texas, la legge che ci riporta direttamente nel Medioevo, reistituiamola, è meglio. La legge che prevede che un medico possa mentire ai genitori sulle eventuali malformazioni del feto per cercare di impedire un aborto se una donna, una coppia decide di volere abortire. Ebbene, La Stampa con Chiara Baldi racconta l'ospedale di Iseo in provincia di Brescia, dove da 15 anni non c'è un aborto, non c'è un'interruzione volontaria di gravidanza, ma perché sono su 29 ginecologi, infermieri e anestesisti, uno solo non è obiettore. Sapete cosa dice il direttore Mario Colombo? In un ospedale pubblico, dove quindi essendo pubblico dovrebbe valere anche lì la legge 194, almeno che non sia un'isola diversa. È vero, a Iseo non si praticano interruzioni volontarie di gravidanza, ma a Chiari sì. Le donne possono andare là, se vogliono. Vadano là. Non in questo ospedale pubblico, vadano là. Questo racconta La Stampa. Vabbè, dai, siamo alla carta costa, articolo più inutile scovato sui giornali. Ci sono tante notizie: è morto Cino Tortorella, è morto Thomas Milian, c'erano tanti articoli da leggere, ma ci siamo, insomma, soffermati sulla chitarra elettrica. Dai, rimettimi, intanto la chitarra elettrica. Una mezza pagina. Mezza pagina del Messaggero: siamo tutti pazzi per il meteo, anche quando sbaglia, perché ieri era la giornata mondiale della meteorologia. Chi se ne frega!